24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Io non sono mai andato a votare alle primarie. Ci andò. E non... Però, sì, lo so, Prodi ci è andato. Credo che si sia rotto il sassolino. O che, essendo comunque una persona di buon senso, abbia capito benissimo che queste primarie sono una gran presa di culo, ecco. L'editoriale è di Vauro, una gran presa di culo, dice, queste primarie. Vabbè, Vauro, magari qui qualcuno ci aiuterà a capire tra poco, qualcuno che Vauro lo conosce, che gli ha preso. Non diciamo, se non svegliamo tutto, ma oggi c'è una grande sorpresa, amici di 24 mattino. Sono le 6:34 minuti, voglio subito salutare Miriam Lucchetti e subito dichiarare, attenzione, ore di sonno dormite, subito fate con le mani, 5, Alpino Peter Pescapè, 3, 8, io 2, 10, 10 ore in 2, ma insomma in 3, voglio dire 10 ore in 3, benissimo. Queste 24 mattino, vogliamo subito aprire il nostro Parlamento, perché oggi abbiamo un cliente. Il caffè volentieri a tutti quanti. Che non è Nicole Minetti, che ci è venuto a trovare in studio a quest'ora, era disperso, che chiedeva dov'è la redazione di Radio 24. È il grandissimo Vincino che è qui con noi, buongiorno. Buongiorno. Cosa ci fai qui a quest'ora? Sono da 2 giorni a Milano e eccoci qua. Da 2 giorni a Milano. Volevo vedere se era tutto a posto, sì. Se i tram, il metro, tutte le cose andavano. Tutto a posto. Vincino, voi non lo sapete, ma me lo diceva, io non lo sapevo, mea culpa, mea massima culpa, cupio dissolvi tutto. Vincino è stato premiato ieri, vi rendete conto? È stato, neanche lui se ne rende conto, è stato premiato da chi? Ero stato invitato a una cena dall'Istituto Bruno Leoni, che è un sovversivo, no? Di liberali che si riuniscono, insomma, una volta all'anno, io li vedo ogni tanto. No. E che tanto, che premio ti hanno dato? Ma è bellissimo, era una specie di vetro con una palla sotto e delle fiamme sopra. No, era una cosa gradevole, ecco. Non, sì, ma premio, cioè, perché? Ah, premio per il mio lavoro che ho fatto, per aver seguito il processo Fastweb e l'assoluzione di Sky e di tutti i manager telefonici. Vabbè, tutti, no, no, qualcuno, tutti, no. Qualcuno l'hanno condannato, vabbè, sì. No, ma come dire, e che è? Premio liberale dell'anno. Premio liberale dell'anno, esattamente. E ce l'abbiamo qua. Quindi adesso lo mettiamo il premio vicino al busto di Andreotti. Esattamente. È lì, vicino al busto di Andreotti. Non ci ha portato il busto di Andreotti, anche perché andare in giro. Come dire, no, ma poi qua a Milano si spaventano. Appena vedono Andreotti. Ma quanto pesa questo busto di Andreotti? Fai conto, è un busto di marmo di quelli antichi, precisi. Quindi 30-40 No, di più. Di più. Allora, oggi farà con noi anche la rassegna stampa, Vincino, lo tiriamo dentro dappertutto. Hai sentito, una gran presa di culo, dice Vauro, uno che tu conosci molto bene. Assolutamente, come dire, papà ha ragione, è così, Ma sono le primarie, non è... Che cosa c'è da prendere in giro con le primarie? Ma prima di tutto, cioè, non si è mai visto che uno chiama tutto il popolo per eleggere il segretario. Non è che uno chiama gli iscritti in generale. Ma sugli iscritti c'è stato un po' un casino. Sugli iscritti è stato un po' che... E poi, come dire, questo è di Vauro. L'ha detto Vauro, prende le distanze. Prendo le distanze, ma come dire, non, capisco la cosa, potrei essere d'accordo. Se fa un manifesto e una presa per il culo, potrei anche firmarlo. Certo, Pietra Persia è stato un bel risultato, 147 su 147 tutti per Cuperlo. Pietra Persia è vicino ad Enna, della zona, la valle di Crisafulli. C'è Crisafulli, le polemiche. Però manco uno è sfuggito. Io in Sicilia... Tutti. Per Cooperlo si dice, impara, potrebbe essere il nuovo segretario del PD. Siamo sicuri. Sì, Cooperlo, si dice Cooperlo. Così, così pare. Vabbè, allora, comunque, vogliamo partire dalla legge di stabilità. Caro Vincino, leggevo i giornali, oggi abbiamo Vincino, solo unico, one man show qui al bar. Nessuno ha voluto... Nessuno ha voluto confrontarsi con Vincino, insomma, qui in studio. One man show, ho davanti i giornali la legge di stabilità, sai cosa c'è? Tu te li ricordi gli assalti alla diligenza, alla legge di stabilità? 3.000 emendamenti, gli onorevoli vogliono di tutto, hanno fatto un emendamento per salvare la mozzarella di bufala, che è importante, un emendamento per salvare circhi, i circhi, le bande musicali, i musei, i parcheggi autostradali, c'è tutto, insomma. Le sigarette elettroniche rientrano nella legge o fuori? No, quelle rientrano fuori, tra l'altro ne parleremo alle 8:15 di sigarette elettroniche. Insomma, c'è chi chiede con un emendamento di salvare operai alla forestale, chi vorrebbe utilizzare i lavoratori socialmente utili, insomma ognuno cerca di portare a casa un po' di soldi per qualcun altro che casa. Questo che sia da quanto è? Dal 48 che funziona così? Ogni fine anno in Italia c'è acchiappa soldi per tutti. Acchiappa soldi per tutti, oddio. Per quelli che riescono. Per tutti, capacità di emendamento e di... Però la novità invece che arriva dal punto di vista della casa è questa nuova tassa, perché magari la TUC, no? Che fanno così alle case, tuk tuk, chi è? Equitalia, tuk tuk, e adesso busseranno così, faranno. Questa è la nuova, la TUC, ma ti rendi conto, la TARES, la TASI, la TIRSE, la TISI, la TISI no. Dovrebbe fare un corso di fantasia per... La TUC, io non so, il TUC, non so neanche di cosa si tratta. Comunque ma tanto questa... sono sicuri là, che non è un prodotto da vendere in cui si devono inventare qualcosa di carino, no, loro... Il TUC. Loro decidono. Decidono, insomma, stanno decidendo questa roba di questa nuova tassa. Vabbè, vogliamo parlare un pochino di politica. Secondo te sta peggio messo il PDL o il PD? Il PDL proprio non sta fuori proprio dalla grazia di Dio, il PDL non è lo sfascio, cioè non è che è un disastro totale ambulante, cioè era lui, non c'è lui e via. Il PD sta messo, beh non lo so, dipende, poi adesso da città a città, certo, decide, a Pietra Persia sta messo male, nell'altra parte un po' meglio. Il problema Pietra di Renzi e di tutti i renziani attorno, questo è il vero problema di Renzi. Il problema sono Renzi è attorniato da tanti Matteo Renzi, tutti loro, che loro e lui mentre prima camminava da solo, sciolto, felice, oggi invece lo trovo ingruppato, proprio lui al centro dai 200-800, Fassino, da Torco, ma gente terribile pure intorno. Non... Il problema di Renzi sono i renziani, questo per Vincino, vabbè. Sta di fatto che la situazione pare, la Brunetta ha detto le larghe intese sono finite. Così questo l'ha sempre detto. Allora si fanno dichiarazioni così. Cioè, uno non è che può stare appresso alla dichiarazione di Brunetta ogni giorno. Poi non è che... Cioè, questi dichiarano ogni giorno, ma mi meraviglio tante volte. Cioè, quando vado alla Camera dico: ma cioè, dov'è che fa questa? Dove dichiarano? Cioè, che ora? Dove? Poi di nascosto lo fanno, cioè, tac, convocano due con la telecamera, una cosa via. Quello che fanno alla Camera non conta niente, poi si incontrano nei corridoi e dicono... Parlano di 3.000 cose, di tutto, no? E fanno dichiarazioni. E poi c'è una dichiarazione che io questa ancora non l'ho capita, dopo tanti anni. Però... Dove la fanno e perché la fanno? Ma soprattutto arriva, tu hai capito questa cosa del cupio dissolvi? Questa qua di Sant'Agostino. Sì, certo. E Letta ha detto il cupio dissolvi. Ma che è il cupio dissolvi? Cioè, dalle palle d'acciaio al cupio dissolvi. Non ci aiuterà il cupio dissolvi, no? Il desiderio di morte del governo. Ma io veramente... Cioè, oggi veramente c'è poco, bisogna dire. Ma non è che c'è poco, sono le solite dichiarazioni, dichiarazioni inutili, il cupio dissolvi, le palle d'acciaio. Senti questa, il vicepresidente della regione Lombardia, Mario Mantovani, è andato in Israele in ricordo dei cittadini lombardi che non hanno esitato, a scapito della propria vita, ad aiutare gli ebrei, ha aggiunto questo: è un po' la persecuzione, come nel caso del leader dell'opposizione Silvio Berlusconi, che non può manifestare la parità dei propri diritti. Cioè praticamente, cioè, la persecuzione, come se non l'avevano capito, lui è andato proprio in Israele a raccontare. In Israele, tra l'altro, cioè, a dire. Cioè, secondo me lo prendono e gli danno, non so, 15 anni, 20. No, non lo so, queste sono le dichiarazioni. Le dichiarazioni. O se lo fanno ritornare e poi mandano un gruppo di... se lo prende e se lo porta e ci libera. Poi. Queste sono le dichiarazioni della politica, vi rendete conto? Il cupio di Solvi, eccetera. Senti questa, non abbiamo finito, caro Vincino. C'è un lettore di Libero che scrive a Libero, si chiama Riccardo Viviano, e denuncia: ho visto in un ristorante della Toscana, della tua Toscana, Saccomanni con alcune persone a cena prendere in giro e ridere di Berlusconi, tanto che un commensale del ministro dell'economia avrebbe detto di essere contento che gli fanno un culo a capanna a Berlusconi. Cioè, questo, siamo a questo tipo di dichiarazioni sui giornali. Cioè, quindi Libero denuncia: ho visto Saccomanni ridere dei guai di Berlusconi. E che dobbiamo fare? Sono cose importanti. Un altro diceva che Saccomanni oggi domani se ne va. No, lo fanno. Però a me mi sembra uno che resiste, Saccomanni. Uno sornione che fa mezzo sorrisino. Ancorato lì alle sue cose. Sì, là, così. Poi riborda. Poi dice sì, ma forse... Chi lo sa, rimane. Però intanto vogliamo sentire anche Cicchitto. Cicchitto, una dichiarazione al giorno, dice: quante ne avrà fatte Cicchitto? Ma quello là, dall'epoca della, quando era socialista lombardiano, no? Giovane socialista lombardiano. Ne ha fatte in contrapposizione ai governisti di là. Vabbè, che il suo capo. Ma cosa sono i governisti? Mamma mia, cos'è che era il governista? Martelli, lo vedi che ogni giorno sta qua da qualche parte a raccontare, a parlare? Ma vi rendete conto, gli ha dato il premio liberale dell'anno a Vincino. Liberale dell'anno a Vincino. Vabbè, sentiamo Cicchitto, che non è giorno se non c'è una dichiarazione di Cicchitto. Ce l'ha Confini, credo, questa volta. Noi abbiamo intenzione di rimanere saldamente nel centrodestra, di non farci prendere da quella sorta di ubriacatura mediatica che prese Fini e i suoi amici, per cui qualunque giornale di sinistra li intervistasse, loro si lanciavano in posizioni che erano dirompenti rispetto al centrodestra e quindi perdevano contatto con il retroterra sul quale dovevano rimanere. Mi stavo addormentando. Noioso. No, mi stavo addormentando. Saranno state le due ore di notte di sonno stanotte. Ma mi stavo... Come gli hanno detto, farei la fine di Fini. Allora lui deve sgombrare il campo. Non è che è terribile. Ma questa cosa, la minaccia di Berlusconi: farete la fine di Fini. Non è una minaccia, è una constatazione. Dice: quelli che mi hanno mollato, è andata così. O Berlusconi, no, o nulla. È disperato. E quello, se è fatto il partito personale è così, non è che glielo puoi, come dire, devi ammazzarlo veramente. In realtà come devi ammazzarlo? Ma è così, come fa Bruto con Cesare, va là, attacca 14 amici e via. Diceva metaforicamente, si stava parlando. La politica è questa, devi ammazzare il padre obbligatoriamente. È una metafora, è una metafora. Andiamo a sentire informazioni sul traffico, si fa per metafore, qui al Parlamento, tra poco. 24 mattino. Con tutta la crisi che c'è, non c'è lavoro, i ragazzi vanno a fare la clacca all'eredità per 15 euro per 4 ore e questi delinquenti del PD o PDL, uno pensa a Berlusconi, quell'altro pensa al tesseramento e a tutte le loro cazzate. Resto anche stamattina generoso e pronto alla Minetti, offre piena una tazzina di pensieri come i biglietti, dove è scritta la solita canzone: meno male che c'è il nano, tanto paga sempre pantalone, ed acqua in bocca con Alfano, che se poi lo fa Cicchitto, comincia ormai la litania, con la santa, bene se fitto, qui non c'è più democrazia. L'iter di una legge dura 2 anni, viene firmata dal Presidente della Repubblica, finisce sulla Gazzetta Ufficiale, ma poi la maggior parte di queste leggi non si sente più niente, non vengono applicate, perché poi si sente dire che manca il decreto attuativo. Manca sempre questo decreto attuativo e le leggi rimangono lettera morta. Ma com'è possibile? Ma chi è che deve fare questo decreto attuativo? Parlamentari! Renzi deve fare un partito da solo, deve scrollarsi di dosso il PD. Solo così riuscirà a vincere. Sì, a Roma, voi dell'ATAC è un biglietto, devi essere accorto che non sei clonato. Come te giri è tutto un gran balletto, qua a capo un delinquente patentato. Vabbè, siamo qui con Vincino, eccezionalmente ai nostri studi. Hai sentito l'editoriale di quella signora nei confronti dei parlamentari? Quello era bellissimo, ma anche quell'altro delle cose, attuative era stupendo. Ah, i decreti attuativi, certo. In Italia è così, si fanno le leggi e poi non si fanno i decreti. No, perché, vedi, il decreto attuativo è complicato, dobbiamo stare attenti. Se sbagliano una virgola, tac, escono fuori, prendono soldi un sacco di persone, insomma, cambia tutto. È chiaro. Quindi la legge così, nel dubbio non lo fanno. Legge Alfano e via, ho fatto la legge Alfano, dice, mo. Poi devi fare il decreto attuativo, è che è complicato. Non è che, Uno non lo fa e quindi la legge non entra in vigore. Vabbè, era un editoriale stile quelli di Michele Ainis, quello della signora invece. Sì, con parlamentare. Con punto da prima pagina del Corriere, il più bel giornale del mondo. Sempre il più bel giornale del mondo, ovviamente. Sei nella Casa del Sole 24 ore. No, questo devo dire che è veramente, guarda, una sede bellissima. No, altro che Via Solferino, questa sì è una bella sede. Che Via Solferino era per un giornale dell'Ottocento. Vendiamola, qua invece, cavolo, tutti i vetri, grandi vetri da tutti i lati. Cioè, quanto spendete di vetraio? Non lo so, però l'ha fatta il senatore a vita Renzo Piano. Renzo Piano. Si vede la sua. Mi sembrava di stare al New York Times. Allora, spese loro, soldi nostri, Regione Puglia. Sai cosa si sono fatti rimborsare, tra gli altri consiglieri regionali? Le gomme da neve in Puglia, Vincino, le gomme da neve in Puglia per andare nelle masserie di le gomme noi, da neve. Noi avevamo in Sicilia 5 addetti alla neve per tutto l'anno. Ma perché nevica in alcune zone, ovviamente nell'entroterra? No, a Palermo tutto l'anno, mese per mese. A Mondello, uno toglie la neve a Mondello. Esattamente. La famosa neve di Mondello, dove c'è lo slalom gigante di Mondello. La fantasia della regione siciliana, è una delle cose, un'invenzione. Poi, ma soprattutto, hanno rimborsato cene c'è sempre, mangiano sempre. Gelati, tovaglioli, ma perché la tovaglioli? La differenza tra una cena di partito e una cena con amici qual è? Non lo so. Fabiano Amati del PD si sarebbe fatto comprare dal suo gruppo 200 copie del suo libro Nel segno dell'acqua. Insomma, avrà venduto 200 copie, più o meno quelle che ha comprato. Si è pagato il libro praticamente. Aiutiamo la ricerca di. E poi 53 euro in pasticceria. 125 euro da Decathlon, ma che dobbiamo fare? Tu lo dici sempre, bisogna abolire le regioni. Totalmente, guarda, le regioni, quando non c'erano le regioni, eccetto quelle tre che per problemi storici, no? L'Alto Adige che se voleva andare in Germania, la Sicilia voleva andare in America, la Sardegna voleva rimanere per i fatti suoi, eccetto quelle tre, le altre sono tutte cose totalmente inutili. Cioè, le uniche con lo statuto speciale, che la gente dice dovrebbero abolire quelle con lo statuto speciale, tu dici quelle sono le uniche da tenere. Quelle sono le, così, sono le uniche che, cioè, dopo la guerra c'erano i problemi, l'hanno risolte così. Ma le altre non c'era nessun problema. Non è che avevamo dare da lavorare a un migliaio di portaborse o dei vari partiti nelle varie e quindi insomma dovevamo ma poi a questi qua che non sanno gli affidi la sanità. È un disastro pazzesco. Non è che, cioè, la sanità, che è bellissima in realtà, non è che come idea, come tutto, affidata alle regioni. Cioè, quando stava ai comuni già era meglio, era più. Insomma, le regioni è un disastro. Tutto casino. No, le province sono napoleoniche. Le province, cioè, hanno una loro storia, come dire. Non è che. Però le province resistono, le regioni. Aboli tutte e due, aboliamo tutte. Aboliamo e due. Tutto. Liberale Vincino. Abolire tutto, abolire tutto. Eccolo qua, il premio al liberale dell'anno gli è andato pure all'Istituto Bruno Leoni. Vabbè, rimane con noi in rassegna stampa Vincino, ora andiamo a sentire il giornale radio e poi che Dio ce la mandi buona, qua con il liberale dell'anno. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Eccoci qua, sono le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali con la rassegna stampa. Oggi eccezionalmente abbiamo in studio Vincino che ci è venuto a trovare a Milano. Vincino, ben ritrovato qui dalle 6:30. Eccoci qua. Ci aiuterà a leggere e commentare i giornali con i suoi graffi. E ieri è stato premiato come liberale dell'anno Vincino dall'Istituto Bruno Leoni. Io ho dormito 2 ore, ma questa notizia mi ha bruscamente risvegliato. Quello qua. Allora, intanto vi ricordo che parleremo poi di sigarette elettroniche. Si potrà svapare nei luoghi pubblici. Hai sentito, Vincino? Alle 8:15. Tu svapi? Fumi? No, ci ho provato una volta. Cioè, non mi è piaciuto tanto, devo dire, ma così. Si potrà svapare. Ne parleremo alle 8:15. Avremo Girolamo Sirchia. Te lo ricordi quello che ha vietato come le sigarette? Quello che bello. Il primo governo, no, il terzo, insomma, un governo Berlusconi di questi qua. Ecco qua. Ministro della Salute, vietò tutto. Va bene, parleremo alle 8:15 anche con rappresentanti dei rivenditori e produttori di vaporizzatori elettrici. Intanto andiamo a leggere i giornali che sono in edicola. In questo martedì 12 novembre i titoli sono tutti declinati sulla legge di stabilità, più o meno. Così parte il fisco in 120 rate, l'apertura del Sole 24 Ore, oppure il Corriere della Sera, stretta sui capitali all'estero. Per Repubblica, battaglia su casa e sconti IRPEF. Per La Stampa, niente IRPEF sotto i 12.000 euro. Per Il Messaggero, meno IRPEF sui redditi bassi. Il Fatto Quotidiano, manovra, assalto dei partiti, banca, assalto degli amici. Mentre Libero apre così, i veri numeri, una pensione su due è regalata da noi. Il Giornale, prove di tassa unica, arriva al TUC, il TUC. E poi, insomma, vedremo anche gli altri titoli più avanti. A proposito di pensioni, caro Vincino, tu sai chi è Antonio Malaschini? Mi trovo impreparato. Impreparato, insomma. Malaschini, visto che si parla di pensioni degli italiani, pensioni che forse vengono toccate, pensioni d'oro. Come si fa ad andare in pensione con 500.000 di euro lordi, per carità, lavorando per lo Stato? È una buona pensione. È una buona pensione, diciamo. Annuale. Oggi ne scrive sul Fatto Quotidiano Edoardo Di Blasi, 519.015 euro, centesimi. È tutta contributivo là. Credo sia tutto contributivo, non credo. È la pensione d'oro di un uomo del Senato, Malaschini. Ah, vabbè, uno del Senato è normale. Cioè, quello della Camera che avrà 520.000. Più o meno, le cifre sono queste. Insomma, quando io dico sempre questo mantra, attenzione, tenete le strette mani sul volante se state guidando per sentire queste notizie, perché Antonio Malaschini è entrato nel 1973 al Senato, c'era il governo Rumor. Ha fatto tutta la carriera, è arrivato fino all'anno scorso a segretario generale del Senato, quando è andato in pensione con una pensione di 43.000 euro al mese, quasi 1.500 euro al giorno. Ha dedicato la vita alla patria, praticamente. E che ci fa con tutti questi soldi? Non lo so. Alla sua età, non lo so, 20 anni, 30 anni prima poteva fare una bella vita, ma guarda che stare là tutto questo tempo al Senato è terribile, certo, cioè proprio che diventi una mummia là praticamente. Meriti mezzo milione di euro. So. Meriti 500, sì, e come molti che lavorano 30 anni fanno gli operai metalmeccanici. Esatto, e pure loro rimangono così. No? Ecco, abbastanza. Ma che ci farà a sorteggio un po'? Che ci farà con tutti questi soldi? soldi, Vincino, secondo te? Compra tessere del PD, secondo me, che è la cosa più richiesta in questo momento sul mercato. Altro che Diamante con le tessere del PD, guarda, del futuro. Ti compri un pezzo d'Italia di fronte a te, diventi socio. Ecco, della, questo è Vincino, capite che rassegna stampa ci aspetta. Comunque la storia di Antonio Malaschini, 519.000 euro di pensione, lorda, per carità, lorda, quindi il netto sarà un po' meno, annuale dopo una carriera al Senato. Quante tessere vengono? Non lo calcoliamo. A due euro, quante? 10 euro a tessera? Quanto vengono sul mercato adesso le tessere. A proposito di spese, ne abbiamo già fatto cenno alle 6.30, ma insomma continuano le spese pazze delle regioni. Questa volta Libero racconta, pagina 12, le spese pazze della regione Puglia. Consiglieri della regione Puglia con la Corte dei Conti, che ha censurato 9 dei 10 gruppi. Le spese sono 4.500 euro di cambio gomme da neve. E là c'è pazzesco, là sul tavolaro, là sul tavolato, come il tavoliere, c'è la neve. L'abbonamento alla Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport, manca un abbonamento al Sole 24 Ore, va bene. Poi uno dei consiglieri ha speso 70.000 euro di benzina. Avanti indietro là, tutto intorno. Certo. Cene, gelati, tovaglioli, acquisto di 200 libri dal titolo Nel segno dell'acqua. E questa è la cultura, investiamo in cultura. Che sono libri del libro del consigliere Fabiano Amati del PD, che ha fatto comprare al suo gruppo 200 suoi libri. Praticamente. Poi magari prende il Nobel e questo, siamo tutti, non ce l'eravamo accorti, non che questo consigliere accorto. Era così colto. Insomma, il titolo è Faccia tosta della casta, si fa rimborsare le gomme da neve in Puglia. Queste sono sempre giornalisti senza fantasia, però, dai. Sì, effettivamente, insomma, sono queste, sono spese delle regioni. E poi c'è la questione della legge di stabilità. Noi tra poco la affronteremo anche dopo la pubblicità. La legge di stabilità, come si diceva prima con Vincino, si trasforma da quanto? Da decenni in un vero e proprio assalto. 1949, forse 50. C'è l'assalto alla diligenza, come si suol dire, no? Cioè, tutti i parlamentari cercano di recuperare dei soldi per loro. Guarda per esempio il Fatto Quotidiano come titolo: gli onorevoli vogliono la mancia. Sai di che cosa? Ci sono emendamenti per tutto, per le mozzarelle di bufala, per salvare i circhi, per salvare le associazioni culturali, per salvare le strade. Chi il parlamentare che si vuole salvare la sua strada c'è sempre, no? Assolutamente, perché i suoi concittadini chiedono aiuto soprattutto ci sono i grandi classici, richieste per il terremoto del Belice del 1968. Tu sei anche siciliano, insomma. Ancora c'era quello di Messina, che ancora non è finito completamente, quello di 100 e più anni fa, insomma. Che in realtà colpì, ammazzò più a Reggio che a Messina. Stanno ricostruendo, stanno finendo di ricostruire. E poi ci mancava il ponte, non gliel'hanno fatto fare. Il ponte di Messina. E poi soprattutto, udite, qui lo possiamo dire perché siamo a Radio 24, siamo alla RAI, c'è la richiesta per fare del canone della RAI che cosa? Non abolirlo, come molti dicono, ma aumentarlo di 6 euro. Aumentare di 6 euro il canone della RAI. Tu sei pronto? Assolutamente, cioè proprio come non si è pagato prima, non si continua a non pagare. C'è una cosa che io lo redatto il canone, guarda, a Radio 24, così. Questa è una battuta, non è che è reale, come cosa. No. Ma voi il canone l'avete? No. Insomma, il canone della RAI, vogliono aumentare il canone della RAI di altri 6 euro, cari ascoltatori. Questo è almeno quello che sono alcuni degli emendamenti, sempre bipartisan, in questo caso sono tutti più o meno d'accordo, propongo di aumentare di 6 euro il canone della RAI. Vabbè, facciamo così, caro Vincino. Noi tra l'altro dopo parleremo appunto alle 8.15 di politica. Di svapatori. Oggi di politica per un giorno la lasciamo perdere. Sai che oggi Francesco Merlo fa un lungo articolo, vietato svapare, anzi no, insomma, sulla sigaretta elettronica, l'ultimo tira e molla all'italiana, perché il ministro della salute Lorenzin, che in un'intervista a Repubblica ribadisce il suo no, basta decreti, rispettiamo il Parlamento, e invece c'è Galan del PDL che gli ha fatto questo. Ma il decreto l'hanno fatto o no? In che senso? No, il decreto vietava ma ora questa cosa qua che cos'è? Fammelo capire. È in vigore, è un emendamento alla legge cultura, sulla cultura. Ah, sulla cultura, è chiaro, perché tutti qua, è chiaro, no? Che si fuma con la cultura. Ma tutti, no? Assolutamente, a Casablanca c'è quello che fuma con la cultura. È molto azzeccato, assolutamente sì, quell'altro con la pipa, non è che i grandi filosofi, i grandi scrittori, cose sono tutti con, anche George Sand aveva quella pipa pazzesca lunga 200 metri. Ma il ministro della salute Lorenzini, intervistato dalla Repubblica da Fabio Tonacci, dice: ma insomma, perché mi chiedete? Io sono sempre stata contraria, ho fatto il decreto a giugno contro le sigarette elettroniche anche nei luoghi pubblici, e si è fatta fregare dalla cultura, si è fatta fregare da un emendamento alla perché cultura. Con la cultura, come sappiamo tutti, è associato si mangia e si andrà alla grande. È associato al fumo, va bene. 24 mattino. Eccoci qua, siamo alle 7:34 minuti, siamo a continuare a leggere i giornali in compagnia di Vincino, che è venuto a trovarci, il grandissimo Vincino, qui ricordo ieri premiato come liberale dell'anno dall'Istituto Bruno Leone, lo diremo all'infinito perché la gente deve entrare in testa questo concetto. Allora, come scrive il Sole 24 Ore, tra poco ne parleremo anche con Mauro Meazza del Sole, spunta la nuova tassa, io l'ho ironizzata così su Twitter. Tuk tuk, chi è Equitalia? Insomma, Vincino, pare che spunti la nuova idea del tuk. Non bastavano il Tari, il Tasi, la Trise. Già, però tuk è più anche evocativo, più da pubblicitario. Sì, tuk tuk tuk. Si ricorda, ragione, ricorda i famosi mentre Tarsi, Track, quelli erano terribili. Come comunque racconta tutto Marco Mobili nel gioco degli acronimi sulla tassazione degli immobili. Il PDL cala il tributo unico comunale. Ecco, questo è l'acronimo: tributo unico comunale. Tuk. Dovrebbe essere questo. Si discosta dalla Tasi, non sarà dovuto sull'abitazione principale. Ovviamente sono tutti discussioni all'interno della legge di stabilità, no? di questo famoso assalto alla diligenza che prevede queste cose. La legge di stabilità dove cadrà poi chi? Il governo non è che quello, lo dai come una cosa scontata. Lo sanno tutti, a Milano non me l'hanno, a Roma lo sanno tutti. Attenzione, Vincino, sono due date là, quella là, prima non so, quella di la data di Berlusconi e poi dopo la data di Renzi. Al 27 novembre la data terra, poi vince Renzi le cose e via. E poi, il giorno dopo sulla legge di stabilità cade tutto. Avete capito lo scenario politico che ci ha disegnato Vincino? Pensate anche voi che sia così. 27 decade Berlusconi, l'8 vince Renzi al PD e il 9 il 10, ma il 10 Renzi può sopportare un governo con tutti questi qua, sia i suoi che gli altri, sono terribili tutti per lui. Non questa è l'analisi politica di Vincino. Ce ne sono due soli, cioè Del Rio è un altro che gli piacciono, gli altri proprio assolutamente, a partire da Letta che non l'ha mai sopportato. Renzi non l'ha mai sopportato, me l'ha detto a me, c'ha quel Letta. Sì, certo, perché Vincino e Renzi si sentono tutti i giorni, questo lo ci crediamo assolutamente. Al di là di queste discussioni sul TUC, spunta anche una nuova idea riguardante le tasse. La proposta, questo è un emendamento bipartisan, sempre la legge di stabilità, quindi parliamo di discussioni che devono essere poi approvate. PD e PDL sarebbero d'accordo a mettere zero tasse sotto i 12.000 euro di dichiarazione dei redditi. Sotto Napoli pure zero tasse delle cose. No, praticamente abbiamo una grande area no tax che... dovete pagarli voi in Lombardia le tasse per tutti, questa è la cosa. Diciamo invece che al sud pagano tutti le tasse e continuano a pagare le tasse, sì. Vincino mi stronca pochissimi tutto. Comunque PD, PDL zero tasse sotto i 12.000 euro anche Repubblica. Lo sai che erano gli esattori delle tasse in Sicilia? Erano i cugini Salvo, no? Ho affidato alla mafia di raccogliere le tasse, non... perché questo, quelli facevano un servizio veloce, prendevano il 20% di agio, una cosa che non c'è mai. Molto più di Equitalia. Insomma, comunque anche Repubblica titola su questo: il piano bipartisan sui poveri, redditi esenti fino a 12.000 euro. Questa almeno è la proposta. Al mese? A 12.000 euro di IRPEF l'anno. A questo proposito voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Salvami, qui c'è Vincino che sta spopolando. Sentivo. Ho detto due dei titoli sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore però apre su un'altra cosa che per la verità avevi già annunciato settimana scorsa, ma ora è operativa: la possibilità di dilazionare le tasse, pagare il fisco, sì. No, per chi è, ma chi lo può fare? Solo chi è in difficoltà, immagino. E come sì, si può sì, fare? Bisogna avere le condizioni di difficoltà che in qualche modo ti impediscono di pagare il debito fiscale. Allora il fisco, visto c'è un titolo appunto dell'editoriale di Salvatore Padula, Realpolitik tributaria, dice meglio prenderne un po' meno in più tempo che non prenderli del tutto. Non so se i Salvo facessero questa forma di rateazione. Non credo. La loro esenzione agli amici totale era più diretta. Però allora no, questo credo che non sia previsto nel decreto. Questa notizia, assolutamente, come no. Riferiamo è che appunto hanno già ricevuto a Equitalia. La cosa è operativa da venerdì, ma già sono cominciate ad arrivare le richieste subito. Ma come si, Mauro, come si stabilisce chi è in difficoltà? Ci saranno delle soglie? Sì, ci sono dei parametri. Ad esempio, se tu hai un reddito di, poniamo, 1.000 euro e la tua rata supera i 200, cioè il 20%, se sei una persona fisica, ti chiedi di dilazionare ulteriormente la E poi ovviamente Equitalia valuterà, insomma, se sei nelle condizioni sì, di in questo poter modo è abbastanza automatico, diciamo, viene riportato in una soglia che il legislatore ha ritenuto sopportabile, certo, appunto per evitare che poi no, si metta a rischio la prosecuzione o appunto del pagamento del debito o anche dell'impresa. Lì c'è un altro valore che è calcolato sul fatturato. Dopodiché, Mauro, abbiamo parlato del TUC, che è l'altro grande titolo che appare. Sì. Qua abbiamo ironizzato TUC chi è Equitalia, ma insomma potrebbe essere anche così il nuovo Beh, acronimo. Se non paghi il TUC, poi c'è il TUC a TOC, perché diventa rate, no? Potresti chiedere di fare il TUC a TOC. Il TUC a TOC. Adesso non vorrei esagerare. Comunque lo spiega molto bene Mobili. Questo diciamo, chiariamo che è una proposta, ribadiamo certo che è una proposta, quindi non hanno ancora deciso nulla. Ancora. Ma poiché questa quando proposta mai, viene dal relatore alla legge di stabilità, è una proposta, come dire, che ha un peso specifico forte. E quindi, insomma, è possibile che questa proposta poi venga fatta, come si dice, propria dal governo e dall'aula tutta, eccetera, certo, eccetera, eccetera. Insomma, che ci arrivi effettivamente, anziché il Trise avremo il TUC. Chi lo sa, poi, poi che non so se. Ma tu non vorresti una isopensione invece? Una iso che? Isopensione. È bellissima come nome. Il vicino non ha capito cos'è la isopensione, Mauro. Lo so che vi avrei sorpreso con questa isopensione. Vicino, vicino nel dubbio dice sì, bellissima, io ho preso la isopensione. Mauro, che c'è? La linea è caduta la linea, rimaniamo con questo dubbio da sulla isopensione da sopra a sotto. Questo punto no, dobbiamo leggerla tra poco sul Sole 24 Ore, lo leggeremo. A proposito di questo però, e sempre a proposito di legge di stabilità, caro Vincino, sai che Saccomanni ha detto, questa è un'altra cosa che si sente come nel 48, no all'evasione fiscale, mano ferma contro l'evasione fiscale. Questa quante volte l'abbiamo sentita? Pure i cugini Salvo lo dicevano sempre, assolutamente. I cugini Salvo. Non si scherzava. No, tra l'altro il Corriere della Sera dedica a questo, pagina 3, la mossa di Saccomanni, avanti con il rientro di capitali, addio all'anonimato, e le banche svizzere dicono via il segreto o conto da chiudere. Ecco, su questo le banche svizzere sarebbero pronte, insomma, a dare una stretta nella battaglia contro l'evasione, racconta Francesca Basso sul Corriere. Dicono: chi porta i capitali all'estero in Svizzera è ormai accerchiato, quindi non è neanche più facile portare i conti i soldi in Svizzera. Come dire, non ho mai sviluppato questa tematica. Diciamo. Comunque c'è la mano ferma e la promessa del ministro Saccomanni, mano ferma contro l'evasione fiscale. A proposito di Saccomanni, Vincino, sai dove l'hanno, almeno racconta Libero, dove lo avrebbero pescato? al ristorante là. Sì, cioè c'è un lettore di Libero che ha scritto al quotidiano di Maurizio Belpietro, si chiama Riccardo Viviano, una lettera, ha preso carta e penna, ha detto: caro direttore, sabato 9 novembre ero a pranzo in un ristorante in Toscana e accanto al tavolo dove ero con mia moglie si sono accomodati il ministro Saccomanni, sua moglie ed altre due coppie di amici, anch'essi noti. E racconta questo lettore che durante il pranzo Saccomanni avrebbe ironizzato sulle disgrazie giudiziarie di Berlusconi e il commensale di Saccomanni avrebbe detto: che bello, gli stanno facendo un culo come una capanna. Stupendo. Ma come stupendo? No. Ma e allora Libero si chiede, cioè, possibile che il ministro Saccomanni abbia fatto parte di questo consesso? Ma sicuramente, guarda, sicuramente. Di allegria e di cosa. No, ma là, questo qua, cioè, questo, lui è una persona carina con quel sorrisino un po' così, no? E ogni tanto è scappato, poi con la moglie e gli amici, no, qualche battutaccia, no, c'è facile, da dire che viene a tutti, Libero non... da alcuni giorni se la sta prendendo con Saccomanni, ma questa lettera è un, insomma, un giacuzzo abbastanza duro. Ho visto Saccomanni ridere con gli amici dei guai di Berlusconi. Guarda, ti dico una cosa, cadrà il governo ma Saccomanni rimarrà. No, adesso... là, assolutamente, guarda. L'unico lì al Ministero del Tesoro. Beh, col suo sorrisino là, con le sue cose. Che lui deve stare ancora a cercare a cercare i soldi per Starà, cadrà il governo, dice Vincino, il solito pessimista Vincino. Sta di fatto che ieri il presidente del Consiglio Gianni Enrico Letta, questo lapsus clamoroso, Enrico Letta, non l'ho fatto apposta, Enrico Letta, non Gianni Letta. Quello Dubal che poi non era vero, no? Sì, ha detto a Malta, era a Malta per parlare della missione internazionale, insomma, sulla questione dei... È andato al casinò pure, sono due bellissimi casinò a Malta. La questione dei migranti, ma racconta Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore, ha fatto questo riferimento dicendo: il mio orizzonte politico è di 18 mesi e lo sfascio totale, il cupio di Solvi in questo momento. Lui vuole arrivare al nessuno. 2018, sì. Infatti ha fatto questa cosa, 18 mesi, ma è il 18 che è la sua scadenza naturale secondo lui. Ma no, è più vicino in realtà. Qui, e quale, scusa, 2015. La legislatura è iniziata nel 2013, 5 anni, va al 18. No, 18 mesi. Ma lui 18. Dice, per fare capire 18, mettere in testa, quello è abile Letta. Non... Vuol far passare il messaggio nel ma 2018. Ma non passa perché... Comunque c'è, cioè, questa cosa del cupio di Solvi. Questa è una cosa, mi dà fastidio proprio a me. Desiderio di morte, qua, no? Mi autocensuro, non posso dire cosa penso quando cupio di Solvi è una... Cioè, è una cosa che già ti dà fastidio. Sì, comunque... no, perché poi parte con Sant'Agostino, come dire, una cosa che, cioè, era una cosa nobile, no? È ridotta proprio a un mezzuccio qua. A così. Mezzuccio di politica. Ah, sì. Insomma, si riferisce sempre Letta alla questione che dicevi tu: non è che se il 27 decade Berlusconi, allora questo deve inficiare il governo. Insomma, lo irrobustisce, gli dà proprio salute al governo. La caduta di Berlusconi, no, come Renzi diventa segretario del PD. Un'altra salute al governo, è come si rifà le gomme, la testata e tutto, e via. È il governo 2018. Parte nuovo di slancio. Va bene, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Vincino nella rassegna stampa di oggi. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Sì, il panettiere dell'informazione. Oggi siamo due panettieri qui, eccezionalmente è venuto a trovarci Vincino, ci aiuta a leggere i giornali, starà con noi fino alle 9, poi parleremo di sigarette elettroniche. Allora, cosa c'è ancora da raccontare dai giornali? C'è questa cifra, caro Vincino, una perdita che Confcommercio ha stimato di 17 miliardi l'anno per i prodotti taroccati, perché c'è la crisi e la gente cosa fa? Compra i prodotti taroccati. Non e quindi, ci credo. Pochi soldi e compra la pasta di plastica, il pane... No, la pasta di plastica ma gli abbigliamenti audiovisivi... C'è tanto, da lontano non si nota la differenza. E quindi, però in realtà è una cifra, 17 miliardi di euro, che è una cifra impressionante. Abbiamo parlato un po' del PD, il PDL è pieno di retroscena, tutti questi retroscena, Berlusconi... Ma sempre gli stessi però. Sempre gli stessi. Cicchitto, Berlusconi, cosa faccio, non rompo... Quell'altro là, terribile, sono... Formigoni e Giovanardi, come si può? Formigoni e Gelmini hanno litigato via Twitter. Ma la vera notizia è che Berlusconi adesso sarebbe pronto lui ad andare all'opposizione, cioè a rompere e a lasciare, come dire, gli alfaniani, eccetera, il governo, e lui passare all'opposizione, perché continua a dire: farete la fine di Fini, con questo gioco di parole. come dire, è un disastro là, non, cioè tu, faranno tutti la fine, secondo me faranno tutti la fine di fini, eh? In cioè, che non senso? È che tutto, cioè, il PDL totale, ah, non, è completamente, insomma, non, faranno la fine di fini. È come se non avessero capito nulla di politica, non lo so. Sta di fatto che Gianfranco Fini fa due interviste, sai che sta girando con il libro, viene intervistato da Ugo Magri oggi sulla Stampa, pagina 7. E ogni intervista cerca di vendere un libro almeno. E dal, come, chi e dal secolo XIX a pagina 5, al secolo, dice, Angelino se ne andrà ma pochi lo seguiranno. Quindi forse ha imparato la lezione. A leggere i giornali, sa leggere i giornali, cioè non... E invece alla Stampa dice, Alfano si accorge ora dei metodi, sai, fuma 40 sigarette al giorno Fini da quando è stato buttato fuori. Ah, 40 sigarette. Prima aveva smesso di fumare, cioè ogni tanto si nascondeva alla camera per fumarsi una di nascosto, proprio perché lui era un uomo forte e ha smesso di fumare. Oggi invece ha ceduto totalmente su tutto. Vabbè. Allora, le due notizie di cronaca più importanti trovate, una davvero è, riguarda un personaggio che è diventato molto noto in Italia, no? Il famoso disturbatore della TV, Paolini. Paolini, Gabriele Paolini, oggi i giornali raccontano, le accuse sono terribili, quello di avere adescato giovani minorenni in chat e in cambio di ricariche di cellulari, un paio di jeans, 30 euro, 15 euro, averli filmati durante rapporti sessuali. Bisogna vedere chi è il PM però qua, in ogni caso sempre, come dire. Non... Ma perché? Cioè, lui... no, perché PM, tante volte... La PM Claudia Terracina. Ma è non è la PM... Che c'è? Va bene, Claudio Terracina, va perché bene. È sempre dubbioso, Vincenzo. No, Claudio Terracina va bene. Ci sarebbero i filmati Paolini con le confessioni. Ma lei sta facendo un film lui su... Ma erano 17enni, caro Vincenzo, 17enni, minorenni, insomma, che dicevano, per noi era la cosa inquietante, diciamo. La cosa inquieta, perlomeno. Come inquieta quello che è successo a Salerno, dove la partita Salernitana-Nocerina è stata sospesa, e ride, ma insomma, Vincino, ridi, ma oggi tutti i giornali raccontano di uno spaccato del mondo degli ultra che a Nocera Inferiore tengono totalmente in scacco 700 ultra, proprio tengono con il loro presidente in scacco tutto, cioè tra gli ultra della Nocerina era una questione d'onore, a pagina 19 della Stampa, ma guardate il... Ma il presidente della Nocerina è il capo degli ultra? No, il presidente della Nocerina è Giovanni Citarella. Il suo profilo viene fatto da Fulvio Buffi e Mario Gerevini sul Corriere della Sera, pagina 21. Il boss della squadra tra cemento, appalti pilotati, il padre ucciso dalla camorra. Appalti della provincia? Della provincia di Salerno. Esatto. E qua è tutto, è come la storia di Paolini, come se avessimo il filmato là, lo spaccato è davvero bisogna vedere chi è il PM anche qua, è davvero inquietante, tutti i giornali dedicano una pagina su questo, caro Vincino, però io sono quasi alla conclusione, sai che io concludo sempre con un premio, che è il premio per l'articolo più inutile scovato sui giornali a mio insindacabile giudizio. E allora oggi la carta costa va a Libero, a Gianluca Veneziani, che ha raccontato questa vicenda vera. Sai che a l'ESMO hanno fatto reclutamento per le 100 nuove facce del Popolo della Libertà. Sai quanti si sono presentati? Dove? All'ESMO? All'ESMO, no. L'ESMO. In provincia di Monza. L'ESMO. Sai quanti si sono presentati a questo casting? Uno. Una signora di 70 anni da Rapallo, la signora Maria, come si chiama questa qua? La signora, mi sono perso il nome, comunque la signora Maria Antonietta Tamburrano da Rapallo, in taxi ha speso 120 euro. Praticamente siamo già oltre fini, allo 0,0, il PDL è finito totalmente, dai, guarda. Al casting per le facce nuove si presenta solo una vecchietta. Una vecchietta, è finita. Niente, Vincino, le prossime elezioni il PD prende l'85%. Ebbene sì. Si deve proprio dire che la carta costa e su Libero potevano risparmiarsi un articolo del genere, e la vecchietta 120 euro ha speso in taxi da Rapallo, per venire lì, e non c'era nessuno. È tutto sospeso. Ci proverà la prossima volta, al prossimo casting. 24 mattino. Siamo qui alle 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo tornare oggi sul tema delle sigarette elettroniche. Lo abbiamo fatto nei giorni scorsi perché abbiamo raccontato di come i produttori di questo settore denuncino un accanimento vero e proprio dello Stato dal punto di vista fiscale, no? Un accanimento fiscale per abbattere un settore che rischia così di essere stroncato. Ne torniamo a parlare oggi perché manco fosse il tema del giorno, nel giro di un paio di giorni è arrivata una novità abbastanza clamorosa, e cioè la possibilità di svapare, così si dice, delle sigarette elettroniche, quindi di utilizzare questi prodotti nei luoghi pubblici, nei cinema, negli autobus, nei bar, nei ristoranti. Ma davvero si può fare? Sì, si può fare, nonostante a giugno scorso ci fosse stato un divieto voluto anche dal Ministero della Salute per vietare invece questo tipo di strumenti, limitarli solo all'aria aperta e agli appartamenti privati. Ora invece c'è stato, che cosa? Un colpo di scena, un emendamento in una legge sulla scuola, e qui si potrebbe aprire un capitolo a parte a dire che cosa c'entra un emendamento sulla legge della scuola e una legge della scuola che vada a normare la questione delle sigarette elettroniche, ma comunque insomma, chiusa parentesi, insomma, è stato tolto il divieto all'uso delle sigarette elettroniche, e che quindi ora possono essere utilizzate, ma io credo già, visto che c'è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da oggi, non so, magari avete già incontrato qualcuno che in autobus svapa, che in ufficio le accende, non so, si può dire accende, che magari va al cinema con lo svapatore, chi lo sa. Insomma, è un tema che ovviamente divide gli italiani. 800 24 00 24, se volete intervenire, ne parliamo, riguarda anche i nostri usi, i nostri modi di essere, chissà, magari è un qualcosa che riporterà anche qualche litigiosità del passato legata più alla sigaretta tradizionale. Oggi segnalo che il ministro alla salute Beatrice Lorenzin viene intervistata da Repubblica e dice: ma io sono sempre stata lineare, e comunque questa decisione dell'emendamento e del decreto della scuola che cambia la vicenda non modifica comunque la situazione. Noi abbiamo sempre il rispetto dei minori, tanto che restano vietate a scuola l'uso delle sigarette elettroniche. Vabbè, mi sembra un po' una difesa d'ufficio, in realtà la situazione è un po' di un balletto di leggi incomprensibile. In ogni caso ne vogliamo parlare con Massimiliano Federici, che presiede la Fiesel, la Confesercenti dei rivenditori e produttori di vaporizzatori elettrici. Buongiorno Federici e benvenuto. Buongiorno. Così come voglio salutare il rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità presso l'Unione Europea, si tratta di Roberto Bertollini. Buongiorno Bertollini e benvenuto. Buongiorno. Allora Federici, voi siete contenti intanto, nel senso, per questa possibile apertura, oppure questo balletto di leggi anche a voi lascia un po' perplessi? Allora, sicuramente sarebbe piacevole aver sempre delle norme certe, univoche, e che non diano una continua interpretazione nuova delle cose. In merito a questa nuova opportunità che sembra esserci presentata, in realtà non è da giugno che c'è questo divieto, ma è stato semplicemente introdotto ad agosto, all'ultimo momento, dal 29 di agosto. È stato proprio un divieto inserito all'ultimo momento. Vabbè, però c'era questo divieto. Ma adesso mi faccia capire, è cambiato? Cioè, nel senso, da oggi si può svapare, come si suol dire, su un autobus? Cioè, proprio è ufficiale? Sì, il decreto scuola contiene delle norme che regolarizza questa cosa. Nulla di male dal suo punto di vista, no, era capire se è effettiva proprio, cioè io potrei incrociare in autobus o in metropolitana, nei mezzi pubblici, qualcuno che in questo momento accende lo svapatore. Magari raccontatecelo, cari ascoltatori, magari è già successo, avete incontrato qualcuno ben informato che subito questa mattina ha acceso lo svapatore. Per lei nulla di male, insomma? Assolutamente. Io vorrei precisare una cosa. La sigaretta elettronica produce vapore. Ci sono evidenze scientifiche che non evidenziano in nessun modo il danno per i terzi, quindi il vapore passivo. E questo è un discorso fondamentale. Da qui all'educazione, che comunque dovrebbe contraddistinguere ognuno di noi, ce ne passa. E cosa le voglio dire? autobus piuttosto che al ristorante, piuttosto che al cinema, e incontro delle persone che sono nello stesso posto insieme a me, sì, e faccio l'esempio del cinema, e una persona mentre viene proiettato il film parla ad alta voce con, sì, quello vicino, non c'è bisogno di una legge per dire che quella persona lì è maleducata. Ah, quindi lei sta dicendo anche modo, allo stesso modo, se uno svapa e mi dà fastidio basta dire Se nel nostro immaginario l'opportunità di svapare all'interno di un luogo pubblico significa poter fare delle nuvole di fumo che disturbano gli altri, e non è così. Lo so, però lei ricorda insomma le vicende del passato, no? Le vecchie sale cinematografiche con oppure i ristoranti dove si deve discutere. Guardi, e quello ti dice: ma che vuole? È un mio diritto, io posso fumare finché voglio, io posso svapare. Ha perfettamente ragione, e le dico che io, da fumatore, ex fumatore, nel momento in cui fu introdotta la legge Fischia, fui, mio malgrado, contento, perché andava evidentemente a regolare qualcosa che disturbava i terzi. La sigaretta elettronica ha un procedimento completamente diverso, intanto non c'è danno per gli altri, okay? Non c'è danno per gli altri. Beh, fastidio che eventualmente può produrre è enormemente minore, ma io non è che accendo per esempio la sigaretta tradizionale e poi devo aspettare che finisce. Posso anche con estrema educazione fare un piccolo tiro senza produrre fumo e senza produrre insomma lei lo fa rientrare tutto nell'alveo dei buoni rapporti tra le persone. Però guardi che lei è entrato già nella questione sanitaria, sulla quale Bertolini, lei tra l'altro mi ha anche scritto dicendosi molto arrabbiato per il provvedimento del governo. Sì, credo, sono molto, a parte il fatto, vorrei capire se è un decreto già approvato da tutti e due i rami del Parlamento, perché fino a prova contraria abbiamo due rami del Parlamento, quindi può darsi che questo sia ancora da approvare alla Camera piuttosto che al Senato, questo non lo so. Ma ieri leggevo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quindi insomma, quindi siamo proprio messi male. Lei dice siamo messi male. Vorrei precisare una cosa sulla parte scientifica. Dunque, siamo di fronte a un problema, il problema dobbiamo riferirci è quello del tabagismo, che è la cosa più importante che ci interessa, perché è quello che causa 80.000 morti l'anno, centinaia di migliaia di casi di malattia, tumori, eccetera. Quindi è questo che a noi interessa come Organizzazione Mondiale della Sanità e come operatori di sanità pubblica. Ora, se non discuto sull'effetto o meno, sulla nocività o meno delle sigarette elettroniche dal punto di vista da loro direttamente, vorrei precisare però una cosa. Uno, stiamo parlando di eventuale fumo passivo, diciamo così, fumo, sì, vapore passivo, che si confronta non con il fumo passivo delle sigarette, perché attualmente il fumo passivo delle sigarette non c'è nei locali pubblici. Stiamo quindi parlando di una situazione in cui c'è zero esposizione, una situazione in cui c'è della esposizione al vapore, a formaldeide, a nicotina, a propilene glicole, eccetera, eccetera. Cioè, dice, quindi, c'eravamo abituati a stare bene, tra virgolette, dal punto di vista dell'atmosfera nei luoghi pubblici, e invece introduciamo un qualcosa adesso. Esattamente, cosa che non è necessaria, insomma, quindi voglio dire, primo punto bisogna dire questo. Secondo punto, quello che a noi ci interessa e ci preoccupa è il cosiddetto dual use, cioè le persone che, i fumatori che fumano le loro sigarette dove gli pare a loro, e poi negli ambienti pubblici usano le sigarette elettroniche. Questo è stato dimostrato essere un pattern d'uso molto frequente, quindi si introduce un elemento che scoraggia l'interruzione del tabagismo, da un lato. Dall'altro c'è il problema si tratta di strumenti elettronici, si è visto negli Stati Uniti che hanno avuto un grande successo tra i ragazzi, si pensa che questo strumento può iniziare, diciamo, le persone alla assuefazione alla nicotina, sì, perché ricordiamoci che stiamo parlando di una assuefazione a una sostanza biologicamente attiva. Però mi scusi, Bertolini, voi come una sostanza attiva, o voi come Organizzazione Mondiale della Sanità fate tutti i vostri doveri di prevenzione, di educazione, anche a non iniziare a nessun tipo di, come dire, né il fumo tradizionale né questo. Però dal punto di vista, Federici dice, vabbè, ma io dal punto di vista concreto, cioè che male facciamo se questa cosa non fa molto male, se è limitata, se non c'è uno studio che dice che fa male, guardi Milan, il problema è che noi in questo modo non aiutiamo i fumatori a smettere di fumare, perché non è affatto vero che le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare. C'è un unico studio che dura sei mesi, che dimostra che dopo sei mesi la frequenza di ritorno al fumo è più o meno equivalente tra questi tre gruppi, c'è cioè un piccolo vantaggio per i fumatori di sigarette elettroniche. Quindi non è anche vero quello che diceva il professor Veronesi l'altro giorno sui giornali, che è una cosa innocua, va bene così, cioè, è un problema che va visto nell'ambito generale del tabagismo, ripeto, che è un fenomeno gravissimo che causa dei costi sanitari e umani enormi in Italia e nel mondo e in Europa. Quindi diciamo, stiamo muovendoci su una cosa che non è necessaria, cioè, vuol dire, vogliamo autorizzare le sigarette elettroniche, benissimo, si fumino, si controllino la sicurezza delle sigarette stesse, si eviti, si sappia che cosa c'è dentro, ma non nei luoghi pubblici, lei però dice... È inutile introdurre questa cosa nei luoghi pubblici, che è veramente si fa un passo indietro enorme. Poi lei immagini una situazione, insomma, al cinema, a parte le considerazioni che faceva il rappresentante dei produttori che appunto diceva alle persone l'educazione, cioè, lasciamo perdere questo tema che non mi pare che sia appunto pertinente, perché poi, come si sa, le persone sono autorizzate a fare una cosa e la fanno, punto e basta. Ma lei immagini la maschera del cinema, che manco so se esiste più, che va in giro a vedere, no, tu fumi la sigaretta elettronica, no, tu fumi quella normale, cioè si creano degli elementi di litigiosità. Insomma, lei dice, si crea una situazione di pasticcio, ecco, diciamo così. Ma ripartiamo da questo dopo la pubblicità. Tra l'altro io voglio invitare ancora i nostri ascoltatori 800 24 00 24 a intervenire. Addirittura, ma non è tema di questa trasmissione, Repubblica oggi, in un lungo articolo di Francesco Merlo, ne dà una lettura politica, cioè politica, guardate questo l'arzigogolo di Francesco Merlo, e cioè sarebbe intervenuto Galan del Popolo della Libertà con questo emendamento nella legge sulla scuola. Galan è uno stretto fedelissimo berlusconiano, per mettere in difficoltà il ministro alla salute Lorenzin, e invece Lorenzin è un'alfaniana, e quindi secondo Repubblica si sarebbe utilizzato questo sulle spese delle persone, questo balletto di leggi, non si può svapare, no, adesso si può svapare nei luoghi pubblici, in realtà per fare una battaglia tutta interna all'interno del Popolo della Libertà. Vabbè, insomma, questa lettura estremamente politica la lasciamo per un giorno da parte. Sta di fatto che partiamo da questo. Che ne pensate? La possibilità di utilizzare la sigaretta elettronica nei luoghi pubblici, tra poco. 24 mattino. Eccoci qui, allora sono le 8:37 minuti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Parliamo di sigarette elettroniche con questa novità, si potranno utilizzare nei locali pubblici, e vorrei sentire anche gli ascoltatori. Gemma dalla provincia di Salerno, buongiorno Gemma. Buongiorno. Che pensa io lei? sono letteralmente inorridita dalla notizia della facilità con cui si potrà svapare nei locali pubblici, perché stiamo ancora lottando per ottenere che nei negozi non si fumi, ma abbiamo ottenuto che nei luoghi pubblici, teatri, cinema, pullman, eccetera, questo divieto venga rispettato. Ora mi chiedo, in una sala pubblica dove dovessero svapare 100 persone, si creerà una fauna? Che cosa succederà? Io ricordo il cinema del mio paese, che aveva in alto una botola che nell'intervallo veniva aperta per permettere al fumo delle sigarette di uscire. Mannaggia, lei teme un ritorno a questo tipo di scena? E poi, a parte i motivi di litigiosità che sorgerebbero, perché ci sarebbe certamente il furbo e il maleducato che andrebbe ad accendere la sigaretta tradizionale, e quindi invece di goderci lo spettacolo cinematografico, teatrale, staremo a... Insomma, lei teme, Gemma, che quell'educazione a cui faceva riferimento Federici, tra poco torno da lui, insomma, valga poco. La verità è che se uno lo può fare, lo fa, e quindi rovina la possibilità agli altri, per esempio del cinema, di potersi godere il cinema in libertà. La ringrazio, Gemma. Vorrei andare a Venezia da Salvatore. Buongiorno, Salvatore. Sì, buongiorno, Alessandro. Niente, io ho un negozio di sigarette elettroniche e sono anche un ex fumatore di sigarette normali. Volevo solo fare due precisazioni. Il coordinatore della FISL è un commerciante, come sono un commerciante anch'io. È inutile che tiriamo acqua al nostro mulino quando non ci sono degli studi che garantiscono effettivamente che il fumo e la sigaretta, cioè il vapore, lo svapo, come viene detto, non fa male, perché non ne siamo sicuri, a parte con la nicotina, non ne siamo sicuri se fa male o non fa male, punto uno. Punto due, sono nate diverse associazioni, il quale ognuno dice la sua, e tutti tirano dritto col discorso di affermare che, visto che c'è stato un programma fatto dalle Iene, le Iene hanno detto che il fumo elettronico non fa male. Parla Veronesi, il quale aveva anche detto che... Ma lei non dice non tirava acqua al nostro mulino, lei vuole invece tirarsi la zappa sui piedi, mi sembra, Salvatore. Sì, io mi tiro la zappa di piedi, lo sa perché mi tiro la zappa di piedi? E perché? Io fumavo, come le dicevo prima, e mi hanno asportato un polmone. Quando sono all'istituto di Mestre, quando sono stato dal mio medico oncologo e ci vado ogni mese a fare, gli ho detto: posso fumare le sigarette elettroniche visto che non vanno male? Sai che cosa mi ha risposto? Ma lei vuole morire o vuole vivere? E però lei è un commerciante di questo settore, e vabbè, Salvatore, vede i casi anche della vita. Massimiliano Federici, insomma, lei non è che se la può cavare con la buona educazione, no? Come diceva la ascoltatrice. A volte a me che dentro ridere su certe cose. Allora, intanto il discorso della buona educazione secondo me è sempre fondamentale. Detto questo, mi riallacciavo intanto al discorso della lotta al tabagismo, che prima il professor Bertollini ha tirato dentro. Sì. È singolare il fatto che dopo anni e anni di lotta al tabagismo, la prima volta che si producono dei risultati sorprendenti, interessanti, si interviene per arginare quello che le ha, la cosa che effettivamente li ha prodotti. Però forse avete due idee di lotta al tabagismo diverse, cioè per Bertollini e l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuol dire lotta al tabagismo, cioè togliere qualsiasi vizio di qualsiasi tipo, sia fumo sia sigaretta elettronica. Allora, una cosa è il fumo, una cosa è il vapore, una cosa è il tabacco, una cosa è la sigaretta elettronica. Col tabacco la sigaretta elettronica non ha nulla a che vedere. Certo. Ho scoperto prima che ci sono residui di formaldeide, e questa anche mi è nuova. Non è assolutamente vero che non esistono studi in merito, ce n'è uno molto ben fatto, tra le altre cose, che certifica che non c'è vapore passivo. È uno studio che potete tranquillamente andarvi a vedere, non sono cose che ci inventano. E comunque, come associazione di categoria, in collaborazione con le altre associazioni di categoria, abbiamo già in progetto da tempo, e lo stiamo portando avanti, una sorta di protocollo di autoregolamentazione. Io, utilizzatore importante di sigaretta elettronica, sì, ne utilizzo tanta, e mi piace anche andare al cinema. Non mi sono mai segnato, né prima d'agosto, né dopo d'agosto, né da domani, che eventualmente è possibile riutilizzarla. Non mi sono mai sognato di utilizzare la sigaretta elettronica. Ma lei dice: io sono educato, ma la signora dice: secondo il mio punto di vista, non è necessario fare una legge per stabilire ciò che. Guardi che è normale per i suoi canoni, ma non è normale per i canoni di molti italiani. Io però vorrei chiedere a Bertollini come succede in Europa, cioè come viene considerata la sigaretta elettronica in Europa, al di là di, insomma, non mettiamo studi contro studi, perché tanto uno studio definitivo e accertato su che cosa abbia come nocività non c'è uno studio, ognuno si riferisce a studi diversi. Lei per esempio critica il professor Veronesi ha detto uno studio. Allora, Bertollini, ci dica come trattano questo prodotto nei vari paesi, visto che lei... Guardi, anche in questo, nei paesi ci sono delle posizioni molto diverse. Alcuni paesi vietano to cure le sigarette elettroniche, altri paesi consentono la vendita soltanto in farmacia, sulla base dell'assunto che potrebbe essere un elemento di aiuto all'uscita dal tabagismo. In realtà c'è una discussione, c'è una Tobacco Product Directive, c'è una direttiva contro il tabacco che è in discussione attualmente in Parlamento, è stata già approvata dal Parlamento, adesso c'è una fase successiva prima della definitiva approvazione, quindi ci sono delle discussioni ancora in corso, nelle quali le sigarette elettroniche sostanzialmente sono autorizzate per la vendita nelle tabaccherie, comunque diciamo, non solo nelle farmacie, sono vietati per i minori, e inoltre c'è una clausola che deve essere chiarita, non è ancora molto chiara, nella quale si dice che tutte le regole che si applicano ai prodotti contenenti tabacco si applicano anche alle sigarette elettroniche, che vuol dire che laddove c'è divieto di uso delle sigarette normali nei locali pubblici, questo si applica anche alle sigarette elettroniche. Questa però è una norma su cui ci sta una battaglia feroce tra diciamo, chi è contro, chi è a favore, vari gruppi sia politici che di lobby di varia natura, che stanno cercando di cambiare in un senso o nell'altro questa norma, quindi c'è una grossa battaglia in corso che diciamo, è ancora di là da finire, diciamo, sì. Finirà probabilmente intorno a gennaio-febbraio, poco prima che il Parlamento europeo si chiuda per le elezioni europee. A proposito di lobbying, partiremo proprio da qui, perché dopo le informazioni sul traffico, perché il Corriere della Sera fa una parte a dire attenzione, stanno tornando, per la verità non sono mai passate in Italia, le lobby, cioè quei gruppi di pressione, e tra questi ci sono anche i produttori delle sigarette elettroniche, almeno lo scrive oggi il Corriere della Sera. Ma che stanno qui hanno fatto delle cose pazzesche, cioè? Ci sono state le manifestazioni per strada, cioè io sono sommerso da email di svapatori, soprattutto inglesi, che mi insultano tutti i giorni. No, insomma, adesso, cioè, addirittura, è una situazione veramente molto pesante. Ma perché la insultano, scusi? Perché io ho una posizione critica in cui dico che non c'è, noi siamo per la evidence base, cioè policy, cioè le politiche basate sulle evidenze, qui non abbiamo evidenze, quindi che si dica che le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare è un assunto che è basato su una cosa fideistica, non basata sulle evidenze, quindi su questo si scontrano poi le opinioni, perché su questo si è instaurata un'opinione diffusa per cui le sigarette elettroniche sono utili a smettere di fumare, mentre i pochi studi, perché non è vero che ce ne sono tanti, sono pochi, pochi studi disponibili dimostrano che questa cosa è possibile ma non è provata. Comunque le lobby, partiremo da qui tra un attimo dopo il traffico. Eccoci qui alle 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino. Sentirei Emilio dalla provincia di Monza e Brianza. Tutte le volte che sento provincia, Monza e Brianza, caro Emilio, dico: ma le province quando le cancelliamo? Emilio, anch'io non riesco a spiegarmi perché ci sia una provincia come Monza e Brianza. Vabbè. Dica Emilio. Voglio dire molto brevemente una serie di coincidenze strane. Volevo verificare questo con lei, anche con i suoi ospiti. Allora, cominciamo a mettere la legge contro il fumo nei locali pubblici, si cominciano a fumare meno sigarette, lo Stato incassa meno soldi, ovviamente perché si vendono meno sigarette, e vede che si vendono più sigarette elettroniche. Allora metto una tassazione adesso elevata sulle sigarette elettroniche, ma il fumatore che dice: perché devo prendere e pagare più tasse, che tanto non posso fumare da nessuna parte lo stesso. Allora casualmente adesso si dice: ma no, adesso puoi anche fumare nei locali pubblici. Il fumatore dice: va bene, spendo di più, ma tanto posso fumare. Ma guarda che Emilio, non c'è niente di casuale. La questione del tassare un settore che ha tolto soldi al tabacco tradizionale, quindi ha tolto soldi allo Stato, è una questione molto molto banale, ovvia, è stata così. Non è che c'è... No, ma è quello che dico, che casualmente adesso lo Stato dice: guarda che adesso però ti do la possibilità di fumare anche nei locali pubblici. Questo sembra quasi un incentivo. Svapare. Comprami lo stesso la sigaretta elettronica perché adesso la puoi fumare liberamente. Ah, dice adesso che è tassata, adesso che la tassa al 58%, prendetela pure. Sì, perché puoi anche fumare nei locali pubblici, no, una cosa così, ecco. No, ma guardi, Emilio, ma su Repubblica oggi l'intervista al ministro Lorenzin, alla domanda di Fabio Tonacci, a dire: è stato il Ministero dell'Economia a equiparare la sigaretta elettronica ai prodotti da fumo, così dice la Lorenzin. E beh, perché così poteva tassarla, chiede Repubblica. E sentite la risposta del ministro: la sua è una ricostruzione maliziosa, ma non è lontana dalla realtà. E quindi, insomma, la risposta è abbastanza chiara del ministro Lorenzin. Vorrei sentire anche Daniele dalla provincia di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno Milan. Volevo portare la mia esperienza. In provincia di Vicenza già molti locali pubblici espongono un cartello con scritto: qui la sigaretta elettronica non è gradita, quindi ancora prima che il legislatore decida di far qualcosa. Io auspico che ci sia una responsabilità personale, anche se conoscendo bene gli italiani e conoscendomi bene non ci credo molto, tutto qua. Quindi, però lei dice già preventivamente, ha sentito Federici, ci sono già locali dove vi mettono il cartello preventivo. Lei è d'accordo, Tomà? Ma sì, ma perché? Allora, secondo me è la libertà delle persone e diciamo che io posso fare quello che mi pare, gli altri no, perché non c'è una legge che me lo impedisce. Io le ripeto, quello che voglio evidenziare è semplicemente che il danno che procura agli altri il vapore della sigaretta elettronica non c'è. Dopodiché è giusto, se io sono ospite da una parte, conosco l'intenzione che dall'altra parte non è gradito che io utilizzi la sigaretta elettronica, ho l'opportunità di scegliere se continuo ad andarci o meno, ma senza nessun tipo di problema, cioè mi adeguo. Le ripeto, non fa male, ecco, non c'è il problema di stare un'ora, due ore senza dover necessariamente svapare, o mi alzo, vado fuori e svapo, ok, ma ci sono determinati contesti di persone che magari la utilizzano, che la conoscono, eccetera, eccetera, e che sanno che non procura nessun tipo di problema, anzi, a livello anche sociale, riesce ad evitare quelle brutte scene che uno sta a tavola, si alza, esce fuori per fumare la sigaretta, eccetera, eccetera. Sì. Quindi, ma questo sta al gestore, per carità, va benissimo. Noi, vi ripeto, come associazione di categoria, siamo disponibili a questo. E volevo precisarle una cosa. Sì. Allora, se da una parte viene detto, e dobbiamo decidere qual è la versione migliore, no, se da una parte viene detto che la sigaretta elettronica ha prodotto minori introiti per lo Stato perché si sono vendute meno sigarette tradizionali, allora funziona. Se invece non è così, che non funziona, va bene, non funziona. Però la tassazione le dice è un errore. Ma voi siete pronti con le lobby? Oggi leggevo sul Corriere, no, state facendo pressioni anche voi, non mi dica che non avete dei vostri riferimenti, insomma, in Parlamento per cercare di dire. Noi definire la lobby mi sembra eccessivo. Non è un insulto, lobby, in America addirittura sono codificate per legge. Nel senso che andiamo a confrontarci sicuramente con lobby decisamente più potenti e più consolidati di noi, siamo un mercato estremamente nuovo, stiamo semplicemente facendo un'azione di sensibilizzazione e di informazione, sì, perché purtroppo dell'argomento non se ne conosce nulla e prima di pensare di regolamentare un settore bisognerebbe conoscerlo. Da un mio punto di vista sarebbe opportuno conoscerlo. Invece chi ha denunciato queste pressioni è Bertolini, ma davvero, cioè, mi ha impressionato queste, vabbè, le lobby. Bertolini, lei dice addirittura, ma guardi, qui c'è stato, io sono a Bruxelles appunto, sì, sulla direttiva del tabacco c'è stata una pressione paurosa da parte delle grandi, come dire, delle grandi compagnie produttrici di sigarette, quello in, hanno 190 persone che lavorano qui full time soltanto per contattare i parlamentari europei e fare lobby, hanno avuto un budget di quasi 2 milioni di euro solo per questo, hanno contattato individualmente tutti i parlamentari, io sono in possesso di un documento, c'è una lista con tutti i nomi dei parlamentari contattati, quando sono contattati, eccetera, eccetera, per convincerli a, non sto parlando delle sigarette elettroniche, in generale, sì, della direttiva contro il tabacco. Dentro questa lobby poi si è inserita l'attività dei sostenitori delle sigarette elettroniche, che hanno utilizzato, devo dire, anche delle associazioni di fumatori, svapatori, soprattutto in Inghilterra, estremamente aggressive, che hanno fatto una campagna molto molto molto intensa, soprattutto con alcuni parlamentari, membri del Comitato per la Salute del Parlamento Europeo, che in alcuni casi hanno effettivamente convinto, e questo è anche legittimo, devo dire, però diciamo, l'aggressività che hanno dimostrato in questi casi è stata veramente troppa, impressionante, dice, troppa. Cioè, comunque, io ripeto, l'ho vissuta personalmente, come infatti, me mi ha molto colleghi. Colpita addirittura questa degli insulti. Comunque noi ci fermiamo qui, è un tema sul quale torneremo anche in futuro. Intanto voglio salutare tutti, da Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia, saluto anche il nostro grande Vincino che è venuto a trovarci oggi, è stato con noi dalle 6:30 anche in rassegna stampa, ha vinto il premio liberale dell'anno, no, io non riesco a capacitarmi, ora devo andare a bere 5 caffè. I nostri amici dell'Istituto Bruno Leoni l'hanno eletto liberale dell'anno. Allora ci fermiamo, è tutto riascoltabile sul sito radio24.it, mi potete seguire anche su Twitter Alino Milan e potete seguirci anche su Facebook. L'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e gli astriti da politica. 24 mattino.